eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Non aprite quella persiana. È una busta immondizia. È un po' dico la felicità. Che serata con la busta immondizia. Alleluia. C'è un cadavere che arriva che ammocciano. Chiaro già. Pazzo pelle. Ciao pazzo. Ciao pelle. Madonna, pazzine. Sottopinato. Allora io voglio proporre un'ultima cosa prima di chiudere, se permettete. Pier Francesco da Papa, puoi venire un attimo per favore? Io volevo fare un piccolo tipo capate. Un piccolo ritornello da parte di Mitch e poi un piccolo ritornello da parte di Pier Francesco da Papa. Prego. Prego, prima Mitch. Chiami in bellezza. La canzone. Un tuo inedito però. Va benissimo. Renato Zero dei Poveri. Rullallero, rullallero, rullallà. Sta calabrese la morrera me fa. Gnio, gnio, piripipiripa, piripo. Tirullallero, rullallallallà. Tratta ciao amici da amici e da niente. Ciao, grazie. Ora Pier Francesco da Papa. Perché non va bene? Ti sbotto il microfono. Va bene, vieni tu. Ora Pier Francesco da Paola, che ha visto come canta bene. Breve. Ma a far l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi, a tutti i cuozzi, a tutti i scirubetta. Visco come canta bene, zio. Sparate, oh. Sparate, va. A pensare di cielo un cartuccio. La 50 centesimi costa. Mille bolle blu. Dopo queste piccole capette saprete presto il risultato. Caseificio Roberti che finanzia Borgantico. Fattori che mi piace il fumare. Sì. Dopodiché io vorrei. Sì. Sì. I netti petini. Piaggio le raggi. Babbo. Io volevo far dire un'ultima cosa a tutti voi prima di finire. Prego. Amanda Knox è una zoccola. E poi? Puttana. E poi? Viaggiando da Cicero ti coglioni. Sto pensando a te. Ma sto pensando a te. Sera, vai. Com'è? No, viaggiando da Cicero a parte. Prego. Già si muore così, mi piace un donacci, ma non ho fatto quei cazzi. Allora, l'altra sera io sentia Jolle la musica. Certo, voi si siete chiusi. Esatto, papà. Che la cosa bella è che la radio nemmeno riparte. A me è ripartita di nuovo viaggiando donacci l'altra sera. La tua pausa, vai, prego. E poi? E poi Amanda Knox è chi la solito. Lo dico io che non lo vuole dire, ma è una grandissima zoccola. E poi? E che viaggiando ci ha scartavetrati i coglioni. E poi ciao. Visto come scusate, ma bene. E chi più ne ha non ne metta mai. Niente, sono ma massima di amici. Hai visto Paolo Beat? Abbiamo il Paolo Beat noi abbiamo qua. Sì, Paolo Beat e Michele Stella la scala. Scusate, io devo dire una cosa importantissima e urgente. Io mi ubriaco di acqua panda, non lo dico a nessuno perché è una cosa segreta. Ma non era acqua prata, acqua panda. No, questa volta è acqua panda. Acqua panda. Altri che vogliono dire altre cose? No. Ricordiamo ai ascoltatori che la classe non è acqua panda. È acqua panda. Ma è acqua prata. Dobbiamo dire della chat. Abbiamo una nuova chat, è su www.chat.it. Però è anche presente nella pagina del nostro sito www.webradioluzzi.gimdo.com. Basta cliccare col mouse il tasto destro sul link, aprire un'altra pagina e poi inserire un nick a vostra scelta ed entrare come ospite. Sempre se non volete registrare. Grazie per la spiegazione del gemello di Emilio. Dovete cercare il gruppo web Radio Luzzi, da lì c'è entra in chat e poi mettete il nickname oppure vi registrate. www.chat.it. Altro? No. Amanda Knox è una puttana. C'è anche il mio blog se volete leggerlo ogni tanto. No, non lo leggete perché non lo leggete perché ci sono troppe X donne, non è interessante. Donne, è arrivato l'arrotino. Amolamo curtieggi, tagliole, sgraccanacavi, serri. Poi Basta. Va bene. E presto uscirà un nuovo dizionario dal bisignanese all'italiano condotto da Massimo Manetti. Condotto da scritto. Condotto I tre maneggi, noi tre cani. e dopo, e dopo questo materassi a molla. Va bene, buonanotte, io chiudo perché mi fanno salutiamo a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Abbiamo ricambi per tutti i tipi. Ciao bamba, ciao avvicinate, bamba. Avvicinate il signore, abbiamo tutti i ricambi. Basta, di cucine. Cucine bello. A gas, cucine a gas. Cocco bello, cocco bello. Salutiamo a Nicola, Nico, un genio. Voglio, se ne vediamo a picciata la radio. Nico sta con la più competenza, Nico. Che bello che sulla radio non ci ascolta. Ci provano. Ha sputato Torre. Ma chi si innulava che ha sputato? Autolavaggio Carlo. La sputacchiata è l'inizio. La sputacchiata è la fine. E ma forse chiuda. Va bene. Quanta volte che mi ha mandato a che un paese? No? Ma scusa, e uno che aveva un negozio mille bolle che ti potevi aspettare. Un negozio senza nome. Ma chiudiamo, mi fanno segno taglia taglia. Buonanotte. Oggi è il 21 ottobre. Mi accadde di con la macchina, voglio, che pure che è Halloween. Senza ad è Halloween, buonanotte a tutti. La furpetta, divertite però senza arco. Andiamo alla corte, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao.